Da Milano a Roma, dove a dominare la classifica sia per il classico che per lo scientifico, è il Mamiani. 1120 alunni, tasso di bocciatura al 3,5% lo scorso anno. Una scuola che ha deciso di non inserire sperimentazioni e di attenersi al curriculum tradizionale per potersi concentrare soprattutto sul metodo di studio, come ci spiega la dirigente scolastica Tiziana Sallusti. Lavoriamo molto sul metodo di studio, cioè saper, non so, faccio un esempio, prendere appunti, trovare il nucleo essenziale di una lettura, saper catalogare le informazioni, connetterle tra di loro, saper fare ricerca, approfondire un argomento. Ecco, questo prende molto tempo. Se si lavora molto sul metodo di studio, che poi ti consente di all'università di saper affrontare qualsiasi disciplina in modo autonomo, no? È chiaro che bisogna spendere del tempo, delle energie, e pensiamo che questo sia profondamente importante per i ragazzi di oggi, sollecitati in mille modi, tutti diversi, ad apprendere, ad approfondire, ma bisogna pur portarceli, no? A questo apprendimento consapevole. In Veneto sono gli istituti tecnici e professionali la realtà più interessante. Primo posto per il Galileo Ferraris nel settore tecnologico. Più di 1300 alunni impegnati soprattutto su meccanica, energia, chimica, biotecnologie. Il tecnico Galileo Ferraris da oltre 100 anni fornisce quadri aziendali alle imprese della zona, con cui il legame è strettissimo. Quasi il 78% dei ragazzi trova un'occupazione a 4 mesi dal diploma. Il dirigente scolastico Rosario Blasco. Il mercato veronese è molto ampio, adesso la ripresa c'è, adesso il mercato pare che si stia muovendo di nuovo e abbiamo una forte richiesta di liste di diplomati e le posso dirle che per qualche categoria non abbiamo, sono tutti occupati, non abbiamo più liste da dare perché sono tutti occupati ragazzi. Che tipo di figure professionali vi vengono richieste? Sì, specialmente meccanici, guardi, i meccanici sono al primo posto, ma anche gli elettrotecnici e i chimici se la cavano abbastanza bene. Cosa fanno? Vi chiedono proprio delle liste di nomi dei più bravi? Come funziona? No, loro vogliono proprio le liste di diplomati perché hanno da inserire magari 5-6 figure, 10 figure, il loro ciclo aziendale nei loro quadri e nei loro organici e chiedono. Poi non tutti faranno subito il tecnico, andranno all'ufficio tecnico, magari faranno anche un po' di gavetta prima, però c'è questa forte, forte richiesta. A Torino ora, fra i licei scientifici, primeggia il convitto Umberto I, nato nel 1848 per volontà di Carlo Alberto. Il liceo scientifico è internazionale, oltre all'inglese si studia una seconda lingua straniera con un monte ore settimanale di 35 ore, un allenamento importante. Ma i ragazzi non sono soli, si pranza a scuola, poi nel pomeriggio lo studio con educatori o docenti. Studio intenso dunque, ma grande importanza anche alla mobilità internazionale, grazie a scambi con altri licei all'estero. La dirigente scolastica Giulia Guglielmini. Noi offriamo addirittura un'attività educativa al pomeridiana, perché le scuole annesse e i convitti hanno il semiconvitto, per cui i ragazzi fanno lezione, poi si fermano a pranzo qui da noi e al pomeriggio studiano con gli educatori oppure con i docenti. Quindi sostanzialmente possono stare a scuola fino alle 6:30 e quindi forse anche sicuramente questa capacità di studio condiviso con gli altri, con i compagni, il peer tutoring, tutte le attività che facciamo con loro sono sicuramente di supporto e aiutano i ragazzi insieme con i viaggi all'estero che noi facciamo regolarmente, gli scambi con altri paesi, con altri licei, questo sicuramente aiuta, quindi una grande apertura rispetto all'estero, una mobilità internazionale già all'interno dell'istituto, un monte ore importante e uno studio sistematico da parte dei ragazzi. Questo noi pensiamo che siano i punti di forza del nostro liceo scientifico. A Napoli a guadagnare la prima posizione fra i classici è l'Umberto I che ha scalzato il San Nazaro. L'Umberto I è uno dei più antichi licei d'Italia, 1000 alunni con una forte tradizione familiare, tornano cioè i figli di chi ha già studiato in questa scuola. A funzionare, ci racconta il dirigente scolastico Carlo Antonelli, è il patto forte con le famiglie. Se io devo individuare un motivo del successo di questo liceo è il fatto che da un lato ha sempre mantenuto in un certo senso un collegamento molto attivo e molto, direi io, costruttivo con la tradizione della scuola, col passato, ma principalmente con la capacità però anche di aprirsi e proiettarsi verso il futuro. Ecco, il nostro slogan come liceo è quello del futuro a radici antiche. Tuttavia penso che un altro aspetto molto importante sia che il patto educativo con le famiglie qui sia molto molto solido, cioè non è solo un fatto formale, in ogni scuola si firma ogni anno all'inizio un patto educativo, un patto di corresponsabilità educative tra famiglia e scuola. Penso che nel nostro caso sia non solo un documento, un atto formale, ma un atto sostanziale, cioè una forte interazione e collaborazione, e questo credo io che sia uno dei segreti. Il racconto delle scuole migliori d'Italia, secondo la classifica di eduscopio.it, che trovate anche sul sito di Radio 24. Ci lasciamo con le parole di un altro prof speciale, il cantautore Roberto Vecchioni, che di ragazzi ne ha conosciuti tanti e sa come maneggiarli. Dunque qualche consiglio ai genitori, ma anche ai colleghi insegnanti. Hanno la prima metà di una canzone, l'altra metà da ritrovare. Il bello è percorrere la strada di un ragazzo dai 13 ai 18 anni. Quelli sono gli anni di grande formazione di un ragazzo. Devono avere degli insegnanti capaci, non soltanto nella propria materia, ma capaci di intendere dove possono spingere e dove invece bisogna frenare. I momenti topici di un ragazzo, i momenti belli, i momenti brutti, essere anche un po' psicologi naturalmente, credere. Per fare questo, certo, certe materie sono anche un po' difficili, la matematica non è semplice, allo stesso greco, latino non sono semplici, però si può sempre trovare il modo di firmare un armistizio col ragazzo, dire tu questo, io questo, vediamo come arriviamo a metà di questa strada. Perché chi quegli anni li butta via, ha buttato via tutta la vita, secondo me. Il ragazzo che butta via i 5-6 anni che vanno dal prima liceo alla quinta o dal ginnasio al liceo, insomma, ha buttato via tantissimo. Per riprendersi ci vogliono tanti e tanti altri anni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.